In questo momento, migliaia di aziende e pubbliche amministrazioni erogano i loro servizi attraverso Aruba Cloud, perché costruiamo soluzioni sicure e flessibili, proprio qui, in Italia. Esplora l'universo Aruba Cloud. Latino che non è mai passato di moda e recita acta non verba, fatti non parole, e come tutti i proverbi, insomma, esprime un concetto semplice che sembra una verità assoluta: i fatti valgono più delle parole. Cosa insomma molto di difficile applicazione oggi, che è un periodo nel quale tutti parlano e pochi fanno. Però in realtà il problema degli slogan è che sono efficaci ma anche incompleti, e quindi in un certo senso sbagliati, perché non è vero che le parole non valgono nulla. In realtà le parole possono essere molto potenti, a volte le parole hanno cambiato il mondo, ci sono tanti esempi, e oggi vi vogliamo raccontare un esempio molto significativo, perché il protagonista della nostra storia è riuscito a comprendere più di altri l'immenso potere delle parole, ha reso concreto e palpabile quello che era sempre stato inafferrabile, cioè l'irrazionalità. Oggi vi raccontiamo la storia di un uomo che col potere delle parole è riuscito a rivoluzionare il pensiero moderno. Oggi raccontiamo Sigmund Freud. Le parole sono lo strumento essenziale del trattamento psichico. Il profano troverà certo difficile comprendere come disturbi patologici del corpo e della psiche possano venire eliminati attraverso le sole parole del medico. Egli penserà che si pretende da lui la fede della magia. Non ha tutti i torti. Le parole dei nostri discorsi quotidiani non sono altro che magia sbiadita. Ma sarà necessario prendere una via indiretta, più ampia, per far capire come la scienza riesca a restituire alla parola almeno una parte della sua primitiva forza magica. Le parole, scrive Freud, sono magia sbiadita. Forse non ha tutti i torti, visto che la sua più grande creazione, che è la psicanalisi, si basa proprio sul potere della parola, perché Freud ha aperto le porte a un nuovo modo di pensare. Lo ha fatto ribaltando le regole, con un anticonformismo radicale, spiazzante. Ha esplorato il mondo dei sogni, delle pulsioni umane, scientificamente, con un rigore mai visto prima. Negli anni si è discusso molto delle sue idee, però la sua figura non ha perso nulla. Il senso della sua rivoluzione è attuale ancora oggi. Ci sono molti modi per raccontare la storia di un uomo come Freud. Si potrebbero dire tante cose sulle sue teorie. Forse la cosa migliore rimane parlare di lui, del significato delle sue scelte per capirlo meglio. Niente di quello che Freud ha detto o ha fatto ha senso se lo separiamo dal contesto oggi, per cui proveremo a concentrarci sull'uomo prima che sul filosofo e sullo scienziato. Sigmund Freud nasce il 6 maggio 1856 al 117 della Schlossergasse di Freiberg, che è una piccola cittadina della Moravia. Oggi si chiama Pribor, allora era nell'impero austro-ungarico. Oggi è un po' una zona di confine nella parte est della Repubblica Ceca, però è vicina alla Polonia e alla Slovacchia. Il padre di Sigmund, Jacob Freud, è un mercante di lana ebreo, un uomo divertente, pungente, scettico, cinico. Nel 1855, a 40 anni, è già rimasto due volte vedovo. Sposa Amalie Nathanson, che è una ragazza poco più che ventenne, sentimentale, dalla forte personalità, e dalla coppia nasceranno 8 figli. Sigmund è il maggiore. Amalie è orgogliosa di loro, è orgogliosa di lui in particolare, insomma lui diventa il figlio prediletto, e probabilmente da questo nasce la grande sicurezza in se stesso, che diventerà uno dei tratti predominanti del carattere di Freud, famiglia anticonvenzionale, a partire dal fatto che oggi succedono queste cose, ma allora no, Sigmund ha un fratellastro più grande di sua madre, da piccolo si trova a giocare col figlio del fratellastro che in teoria sarebbe suo nipote, vivono una vita serena con un po' di difficoltà legate peraltro soprattutto al forte antisemitismo che si respira in quel periodo, lo spiega bene Ernest Jones nel libro Vita e opere di Sigmund Freud. Jacob Freud commerciava in lana e negli ultimi 20 anni la manifattura tessile, che costituiva la principale fonte di proventi della città, era andata declinando. Come nel resto d'Europa, l'introduzione delle macchine minacciava sempre più il lavoro manuale. La nuova linea ferroviaria, che da Vienna si dirigeva a nord, costruita intorno al 1840, evitava Freiberg, deviando il traffico e determinando una forte disoccupazione. L'inflazione che seguì alla restaurazione del 1851 accrebbe ulteriormente la miseria della città. Il disagio economico si combinò al crescente nazionalismo per scaricarsi sul tradizionale capro espiatorio, gli ebrei. Persino nella piccola Freiberg, i fabbricanti di stoffe, tutti ciechi, cominciarono ad accusare i mercanti di tessuti ebrei di essere responsabili della situazione. Comunque la si veda, Freiberg è una città che non offre futuro alla famiglia e così nel 1859, quando Sigmund ha solo 3 anni, i Freud si trasferiscono prima a Lipsia, poi a Vienna e lui è già un ragazzino che si distingue per disciplina, per intelligenza, legge tanto fin da quando è piccolo, incoraggiato da suo padre che non ha una grande cultura, però ha un approccio moderno all'educazione dei figli, poche regole, libertà di espressione. A confermare tutto questo, ad esempio, c'è il fatto che loro sono, sì, una famiglia ebrea, ma anomala, perché Sigmund è lasciato libero di sperimentare la fede, insomma, finisce col crescere ateo perché i suoi riferimenti li trova nei libri, nella filosofia, nella scienza, studente eccellente, a 17 anni già si diploma con menzione d'onore summa cum laude, oltre al tedesco impara il greco, il latino, l'italiano, lo spagnolo, l'inglese, adora lui la lingua di Shakespeare, adora lo stesso Shakespeare, l'Inghilterra in generale, e a 19 anni decide già di visitare la sua terra dei sogni. È finita la scuola, Sigmund deve scegliere il suo futuro, per un ebreo viennese le strade non sono molte, il mondo dell'industria se vuoi guadagnare, legge e medicina se vuoi una carriera intellettuale. Lui in realtà non è molto attratto dall'idea di diventare un medico, però ha interesse per alcuni aspetti, diciamo, legati alla ricerca scientifica, è esaltato anche dal fatto che siamo attorno al 1870, Charles Darwin sta sconvolgendo l'Europa con le sue teorie, insomma, medicina è la cosa meno lontana da quello che lui ha in mente. Ecco cosa scrive nella sua autobiografia. Sebbene vivessimo in condizioni molto modeste, mio padre insistette affinché nella scelta della professione io seguissi le mie inclinazioni. Né allora né in seguito ho provato una particolare predilezione per la carriera di medico. Ero spinto piuttosto da una specie di curiosità, rivolta tuttavia più agli interessi umani che agli argomenti naturali. E non avevo afferrato che l'osservazione è uno dei mezzi migliori per soddisfarla. Fu nell'ascoltare il bellissimo saggio di Goethe sulla natura, letto ad alta voce dal professor Karl Brühl in una pubblica conferenza poco prima che finisse la scuola, che mi decisi a diventare studente di medicina. Beh, Goethe era uno particolare, descriveva la natura in modo romantico, ne parlava come se la natura avesse un'esistenza propria e sfidasse l'uomo a svelare i propri segreti. Con questa curiosità Freud inizia gli studi, entra all'Università di Vienna nel 1873, 17 anni, ne uscirà nel 1881 a 25, un paio d'anni fuori corso diremmo oggi, ma in realtà questo avviene perché lui non ama le discipline cliniche, gli piace la psichiatria, spesso interrompe la sua preparazione per dedicarsi a materie come la biologia, la psicologia, la filosofia. Comunque prende questa laurea che non rappresenterà poi un grande punto di svolta per lui, neanche l'abilitazione all'attività medica, Eh sì, perché già nel 1877 lui ha cominciato a lavorare con un temutissimo professore, si chiama Ernst von Brücke, è un prussiano rigido, autoritario, esponente di un movimento che si pone in contrapposizione alla scienza romantica, propone un programma meccanicistico, loro direbbero deterministico. Nel laboratorio di von Brücke Freud si appassiona alla ricerca medica, così conosce i due assistenti di Brücke, un fisiologo Sigmund Exner e poi il dottor Joseph Breuer. Con questo nascerà una collaborazione professionale, ma anche una profondissima amicizia personale. Breuer lo sosterrà anche economicamente nei momenti più difficili, perché a Freud questi momenti non mancheranno. La svolta avvenne nel 1882, quando il mio maestro, per il quale nutrivo la massima stima possibile, corresse la generosa imprevidenza di mio padre, consigliandomi decisamente di abbandonare la carriera teorica a causa delle mie precarie condizioni finanziarie. Seguii il suo consiglio, lasciai il laboratorio di fisiologia ed entrai all'ospedale generale. E Brücke riporta Freud con i piedi a terra, gli ricorda che deve pensare anche agli aspetti pratici della sua vita. Sì, all'epoca, insomma, di certo non si diventava ricchi, non si mangiava neanche con la ricerca scientifica, soprattutto se eri ebreo, quindi escluso dai ruoli più importanti. Insomma, Sigmund deve passare al piano B, diciamo, lavora all'ospedale di Vienna, gira da un reparto all'altro, chirurgia, dermatologia, malattie nervose, fa anche un periodo, e qui invece cominciamo a rientrare nella sua sfera prediletta, fa un periodo nella clinica psichiatrica di Theodor Meinert, che è il più grande neuroanatomista del tempo. E nel periodo passato a Vienna, all'ospedale di Vienna, Freud lavora a stretto contatto con i pazienti, studia, pubblica le sue ricerche e vuole trovare qualcosa di interessante che possa dare una svolta alla sua carriera. E quando nel 1882 Freud decide di lasciare il laboratorio di Brücke, lo fa forse soprattutto per una donna, Martha Bernays, è la nipote del rabbino capo di Amburgo. All'epoca Sigmund ha 25 anni, lei 20, e danno vita a un rapporto che per molti anni rimarrà platonico, fatto di scambi di lettere. Questo anche perché Freud lavora, studia per lunghi periodi fuori dalla città, insomma, da un lato deve farsi avanti nella vita, ma vuole creare una vita familiare. Probabilmente questo è uno dei motivi che lo spingono a portare avanti, insomma, una ricerca anche ossessiva di una svolta lavorativa. Lui vorrebbe sfondare con qualcosa di nuovo, qualcosa che possa garantirgli un benessere economico di cui ha bisogno, perché vuole mettere su famiglia. Uno degli studi più noti che fa in questo periodo, peraltro, sarà un fallimento, è descritto in una lettera inviata a Marta il 21 aprile 1884. Stavo leggendo qualcosa sulla cocaina, il costituente principale delle foglie di coca che alcune tribù indiane masticano per rendersi capaci di resistere alle privazioni e alle fatiche. Un tedesco l'ha impiegata con i soldati e ha effettivamente riferito che essa aumenta la loro energia e resistenza. Me ne sono procurata un po' e voglio provarla nei casi di malattia di cuore e anche di esaurimento nervoso, specie nella penosissima condizione conseguente alla privazione della morfina. E Freud prova personalmente gli effetti della cocaina, che allora era sconosciuta, e si convince della sua straordinaria efficacia in campo medico. Comincia a assumerla regolarmente, di fatto diventa un cocainomane, la prescrive anche agli amici, ai colleghi, ai pazienti. È così convinto degli effetti benefici della cocaina che pubblica uno studio in cui la descrive come il rimedio più efficace per combattere quella che allora veniva chiamata neurastenia, cioè il moderno esaurimento nervoso. Insomma, qui diciamo che non aveva proprio fatto centro combattere l'esaurimento nervoso con la cocaina, insomma, non mi sembra un'ottima scelta. E lui la cocaina continuerà a prenderla fino al 1887, quando comincia a, insomma, a capire, comincia a diminuire progressivamente le dosi, smette completamente perché si è accorto degli effetti di dipendenza emersi nei suoi pazienti. Ma va? Nel 1885 Freud ottiene un incarico accademico in neuropatologia a Vienna. Nello stesso anno ha anche una borsa di studio, frequenta a Parigi le lezioni di Jean-Martin Charcot, che era considerato un luminare nel campo della neurologia. Freud è un allievo brillante, ottiene da lui il benestare per tradurre i suoi libri in tedesco. Charcot sarà un elemento chiave per lo sviluppo delle future teorie di Freud. Lui infatti che per primo esclude che i disturbi isterici possano essere frutto di simulazioni, in pratica riconosce che l'isteria è una vera e propria malattia. Charcot è anche un fervente sostenitore dell'ipnosi, del metodo ipnotico. È convinto che le nevrosi abbiano una natura psichica e non organica, e in pratica secondo lui la mente è in grado di provocare dei veri e propri sintomi fisici. Ecco come Stefano Mistura, che è il direttore del Dipartimento di Salute Mentale di Piacenza, descrive l'approccio di Freud all'ipnosi. Il metodo ipnotico colpì molto Freud perché dimostrava che per le malattie psichiche, in particolare l'isteria, c'era una via esclusivamente psicologica per arrivare non solo al trattamento ma anche alla comprensione del disturbo psichico stesso. Freud contribuì quindi a eliminare dal campo dello spiritismo, dal campo delle credenze nelle indemoniate, tutta una serie di malati e di malate che, a causa del fatto che non vi era la possibilità di riconoscere una causa organica, venivano recluse senza tentare nemmeno di capire cosa fosse loro successo. Nel 1880 una ragazza, si chiama Bertha Pappenheim, si affida alle cure del dottor Joseph Breuer, il collega, l'amico di Freud, quello che aveva conosciuto ai tempi delle ricerche nel laboratorio di von Brueck, ricordate? Bertha, 21 anni, ragazza carina, intelligente, una delle pochissime donne laureate dell'epoca. Il padre si era ammalato, era morto, e lei aveva iniziato ad avere dei problemi gravi, improvvisi stati di cecità, di sordità, paralisi, allucinazioni, e sono sintomi da isteria. All'epoca per questo tipo di disturbi si agiva con l'elettroterapia, un modo gentile, diciamo, per dire elettroshock. Breuer procede in modo diverso, utilizza l'ipnosi, cerca di fare rievocare sotto ipnosi alla ragazza i traumi che sono alla base del disturbo. Insomma, riesce a capire che i sintomi sono legati al periodo in cui lei ha accudito il padre infermo. Breuer si confronta con Freud nel giugno dell'82, poco dopo la conclusione del trattamento. I due medici studiano insieme il caso, pongono le basi di un nuovo metodo di cura basato sulla parola, sulla rievocazione dei traumi. Si chiama il metodo catartico. Il caso di Bertha verrà pubblicato molti anni dopo negli studi sull'isteria, dove lei appare con lo pseudonimo di Anna O. Siamo alla vigilia di scoperte che trasformeranno Sigmund Freud nel padre di una nuova concezione della mente umana. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. E il gabbiano. Stiamo raccontando Sigmund Freud, uno dei più geniali, più originali interpreti della mente umana, un vero e proprio rivoluzionario del pensiero moderno. Abbiamo parlato della sua gioventù, del suo periodo di formazione che di fatto non finirà mai. La sua è una personalità curiosa, volta a cercare di comprendere il mondo della psiche umana, non si pone mai limiti di convenienza, viaggia sempre in equilibrio tra scienza e filosofia. Lui ha delle intuizioni legate allo studio, alla cura dei disturbi isterici. Queste sono la base per il suo grande colpo d'ala del quale ancora oggi godiamo i benefici, la teoria psicanalitica. Il 13 settembre 1886 Freud, appena tornato dai corsi di Charcot a Parigi, si sposa con Martha dopo 5 anni di fidanzamento, cerimonia civile che si svolge al municipio di Wandsbek in Germania. Vanno a abitare in una casa elegante di Vienna. Lei gli darà 6 figli. Sigmund si dimostrerà un padre affettuoso e moderno, proprio come il padre era stato con lui. C'è da dire che Marta, peraltro, insomma, non diventerà mai una vera confidente, non ha un rapporto di confronto, forse non la stima, non la ritiene all'altezza, la vede più che altro come la signora della casa. Comunque, la coppia riuscirà a costruire una vita familiare armoniosa, serena, loro hanno spesso ricordato anche i figli. Peraltro Freud è un abitudinario, va ogni giorno dal barbiere, gioca a carte con gli amici, porta la famiglia in vacanze in Baviera, fuma sigari, ne fuma molti, anche 20 al giorno, un'abitudine che non perderà mai. Dopo il matrimonio Sigmund apre uno studio privato, è specialista di malattie nervose, parallelamente viene incaricato di dirigere il reparto di malattie nervose, sempre nella clinica pediatrica del professore collega Max Kassovitz. Lavora con lui, lavora con dei rimedi tradizionali come cure termali, elettroterapia, idroterapia, applicazione di magneti, però sta cominciando a affiancare a questo modo di agire anche il metodo catartico, quello di Breuer. Insomma, lui lo trasforma, lo migliora, sostituisce all'ipnosi un'altra terapia, perché lui non crede molto nell'ipnosi, crede nella terapia della parola, che si basa sulla libera associazione di idee. Insomma, Freud sta inventando la psicanalisi. Freud ha inventato la psicanalisi, che è un evento romantico, nel senso che il romanticismo ha messo in circolazione, dopo il trionfo della ragione segnalata dall'illuminismo, l'ordine della irrazionalità. Freud lo riconosce e ipotizza che questa dimensione appartenga ad una costellazione che lui chiama inconscio, nel senso che ciò a cui di solito noi non pensiamo. Non pensiamo mai alla dimensione irrazionale, non la prendiamo mai in considerazione, perché siamo attestati sulla sicurezza della razionalità, che Freud chiama io. Al di sotto dell'io però c'è una regione dove l'io non è protagonista. Freud dice l'io non è padrone in casa sua, perché questa regione sottostante è abitata dalle esigenze della specie. Freud ci avverte che questa dimensione ci condiziona, ci determina e addirittura è più potente di quanto non sia la nostra parte razionale, per cui bisogna indagarla, bisogna appunto analizzarla. La donde il nome psicoanalisi. Le parole che avete sentito sono del filosofo Umberto Galimberti, spiegano bene il concetto di psicanalisi che Freud comincia a elaborare a partire dalle sue prime sedute. Lui da sempre era appassionato di storia, di civiltà antiche, insomma lui paragona la scoperta dei contenuti confusi e illeggibili, li chiama così, dell'inconscio umano, li paragona al lavoro di un archeologo che ricostruisce le tracce del passato. Certo, è così. Lui parla ai pazienti e ripercorre la loro storia a ritroso, dai sintomi fino all'origine del trauma che è nascosto nell'inconscio. E attraverso questa esperienza clinica Freud comprende che l'isteria dei suoi pazienti per lo più è legata a dei traumi infantili che sono connessi alla sfera sessuale. Capisce anche Freud che la relazione affettiva è l'asse portante del processo terapeutico, comincia a riconoscere questi fenomeni come il transfer, cioè l'attrazione tra medico e paziente. Lui capisce che solo accettando la sfera sessuale il paziente può risalire ai suoi traumi, può riconoscerli, può inserirli nella sfera cosciente, portando il trauma alla coscienza, cioè quando hai capito perché stai male, secondo Freud il sintomo scompare. Naturalmente tutte queste idee legate alla sfera della sessualità per l'epoca sono motivo di grande scandalo. Nel 1896 Jacob, il padre di Freud, muore e per lui era sempre stata una figura di riferimento e per Sigmund quella è l'occasione di partire con un viaggio dentro se stesso, iniziare quella che lui chiama autoanalisi, e arriverà a scoprire degli elementi fondamentali per la sua teoria. Per affrontare l'autoanalisi si affida a Willem Fliss, che era un amico, un collega, un confidente. Fliss è un medico specialista berlinese di origine ebrea, si occupa delle malattie del naso e delle orecchie. Freud lo conosce tramite Breuer nel 1887, è una persona di cultura, Sigmund ha una grande stima personale e professionale di lui. I due cominciano a intrattenere un fitto rapporto epistolare. È evidente che Fliss per Freud rappresenta non solo un corrispondente scientifico, ma anche un confidente. Si scriveranno per 17 anni, dal 1887 al 1904. È evidente che il rapporto di amicizia si sta trasformando in qualcos'altro. È un rapporto di subordinazione intellettuale di Freud nei confronti di Fliss. Forse qui non voglio sostituirmi a lui, ma insomma sta andando a incarnare la figura paterna. Willem assume un ruolo quasi sciamanico, aiuta Freud a interpretare i suoi sogni, le sue fantasie, strani stati incomprensibili alla coscienza, dice Freud, pensieri subliminali, dubbi confusi a stento illuminati ogni tanto da un barlume di coscienza. Il valore paradigmatico teorico del sogno è tanto grande che chi non riesce a spiegare la formazione delle immagini oniriche non può riuscire a comprendere le fobie, le idee ossessive e deliranti, e non può perciò intervenire terapeuticamente su di esse. Tutto il materiale che costituisce il contenuto di un sogno è in qualche modo derivato dall'esperienza, cioè è stato riprodotto o ricordato nel sogno. Questo almeno può essere considerato un fatto indiscusso. Ma sarebbe erroneo supporre che un nesso di questo genere tra il contenuto di un sogno e la realtà debba facilmente venire alla luce come un'immediata conseguenza del loro confronto. Il nesso, al contrario, richiede una diligente ricerca e in una gran quantità di casi può rimanere a lungo nascosto. Le parole che avete appena sentito sono tratte dall'interpretazione dei sogni che Freud pubblica nel 1900. È vero, insomma, il contenuto del sogno può dirci molto di noi stessi, dice Freud, però non è manifesto, va interpretato. Il rapporto, peraltro, tra Freud e Fliss si interromperà poco dopo per via di divergenze personali e professionali. Fliss, infatti, accusa Freud di aver parlato a altri delle sue teorie, permettendo che le pubblicassero prima di lui. Insomma, si chiude un ciclo, se ne apre un altro subito dopo, l'interpretazione dei sogni, che apre una fase importantissima del pensiero, della carriera di Freud. Inizialmente le sue idee verranno accolte con freddezza dal mondo scientifico. Freud parla di desideri sessuali repressi, addirittura incestuosi, come il complesso di Edipo. Sostiene che questi desideri sono presenti in ognuno di noi fin dalla più tenera età, e tutto questo naturalmente viene considerato scandaloso. Ma Freud non si ferma. 5 anni dopo pubblicherà 3 saggi sulla sessualità. E qui esageriamo, perché analizza fenomeni come la masturbazione, la sodomia, il feticismo, le contestazioni, gli anatemi non lo scoraggiano. Lui parla di splendido isolamento, è convinto che il distacco dal mondo scientifico gli permetta di fatto di procedere e di perseguire le sue convinzioni senza interferenze. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. E il gabbiano. Sigmund Freud sta proseguendo imperterrito nel suo lavoro di ricerca, nonostante l'isolamento dal mondo scientifico, anzi forse grazie al fatto che nessuno si occupa di lui nel mondo scientifico. Nel primo decennio del secolo lui attraversa l'Europa in lungo e in largo, partecipa a congressi, cerca di allacciare relazioni, incontri, scambi culturali, pubblica una serie di libri che rendono in poco tempo la psicanalisi un'idea solida, anche in grado di vincere le contestazioni, le ostilità. Insomma, sta ampliando il suo campo di influenza, sta diventando un po' più pop, dimostra tutta la sua determinazione, affina il suo pensiero, perfeziona le sue teorie, e i suoi sforzi stanno per essere ripagati. Le cose piano piano cominciano a cambiare. C'è un gruppo di seguaci, di fedelissimi, che si sta stringendo attorno a lui. Per esempio Eugen Bleuler, ma soprattutto Carl Gustav Jung, nome da segnarsi a penna, e poi capiremo perché. Nel 1909 intanto Freud è invitato a tenere delle conferenze a Boston, in America, insomma in tour. L'anno dopo è al congresso di Norimberga, e poi nasce l'Associazione Psicoanalitica Internazionale, la prima associazione ufficiale ufficiale di psicanalisi. E intanto Freud porta avanti il lavoro clinico, scrive a un ritmo incessante, insomma la sua carriera sta raggiungendo dei vertici che forse neanche lui avrebbe sperato. Freud amplia il campo della psicanalisi all'intera società, ci sono libri come Totem e Tabù, Al di là del principio del piacere, poi tratta concetti come la pulsione di vita o la pulsione di morte, introduce l'ess, l'io e il superio. Sono concetti straordinariamente innovativi. La comunità psicanalitica diventa sempre più grande, Freud si spinge sempre più in là con le sue teorie. Ecco per esempio come Galimberti parla di una delle riflessioni più mature di Freud. Freud ha anche l'accortezza di estendere queste sue considerazioni non solo all'individuo ma anche alla società, e ritiene per esempio che la società attuale rispetto a quella primitiva sia una società eccessivamente repressiva, troppo piena di regole, donde la nostra infelicità, una infelicità che è determinata dal fatto che abbiamo privilegiato la sicurezza alle espressioni della nostra pulsionalità, per cui dice gli uomini primitivi erano molto più felici di noi perché davano espressione a tutto l'ordine pulsionale e tutta via non erano sicuri quanto noi che abbiamo contenuto questo ordine pulsionale. E con l'ampliarsi del movimento psicanalitico arrivano delle fratture interne. La più nota, quella che a posteriori insomma, dividerà in due il mondo della psicanalisi, è quella con Jung, il suo allievo prediletto, il presidente dell'Associazione Psicoanalitica Internazionale, il suo successore ideale. Jung finirà per dissociarsi dalla psicologia freudiana per delle divergenze d'opinione insanabili. Tutti questi contrasti però sfumeranno nel 1914 perché arrivano gli orrori della prima guerra mondiale, centinaia di migliaia di morti, Freud che si oppone pubblicamente a questa follia, peraltro nella guerra combattono i suoi figli Ernst e Martin, volontari, poi c'è Oliver, il terzo figlio, che collabora col genio civile. Insomma, un periodo doloroso, di preoccupazioni, un periodo anche difficile per Freud dal punto di vista economico. Per sua fortuna, alla fine del conflitto, a Budapest viene organizzato il quinto congresso di psicanalisi dedicato alle nevrosi traumatiche post-belliche, gli scemi di guerra. Un giorno dovremo fare una puntata su questo argomento. Comunque è un'occasione inaspettata che viene resa possibile da Anton von Freund, che è un ricco imprenditore di Budapest, un estimatore, anche un paziente di Sigmund Freud. Grazie a questo sponsor al congresso partecipano tutte le più grandi autorità dell'epoca, gli studenti universitari ungheresi chiedono e ottengono di istituire una cattedra di psicanalisi per la prima volta. La psicanalisi viene considerata materia di insegnamento. La parabola di Freud è alle battute finali. Dopo una serie di grandi colpi d'ala, arriva l'incontro col destino. Aprile del 1923, Freud ha 67 anni, probabilmente i 20 sigari al giorno gli presentano il conto, gli viene asportato un tumore dal palato, poi è sottoposto a un nuovo intervento per una recidiva, e questo è l'inizio di un calvario che durerà fino alla morte. Subirà 33 operazioni, sarà costretto a portare una protesi che gli renderà quasi impossibile parlare, sarà la figlia Anna che lo assisterà, gli farà da segretaria, da collaboratrice, lo sostituirà perfino a riunioni e congressi, mentre lui continua instancabilmente l'attività clinica. Poi c'è la salita al potere di Hitler e la situazione di Freud precipita. L'11 maggio del 33, nel famoso, tristemente famoso rogo dei libri di Berlino, le opere di Freud vengono date alle fiamme con l'accusa di esaltare la vita sessuale distruttrice dell'anima. Il clima è tesissimo per Freud in quanto intellettuale e anche in quanto ebreo. Lui decide di non allontanarsi da Vienna perché è convinto che i nazisti non la occuperanno. Si sbaglia, nel 38 ci sarà l'Anschluss e lui cederà alle insistenze di amici, di parenti, e grazie a degli aiuti diplomatici riuscirà a ottenere un lasciapassare che gli consentirà di raggiungere la sempre amata Londra assieme alla famiglia. L'Inghilterra lo accoglie trionfalmente. In realtà lì lui non ci rimarrà molto, perché il 23 settembre del 39 morirà per una recidiva inoperabile del tumore. In varie occasioni Sigmund Freud si è espresso molto energicamente contro l'eventualità di essere fatto oggetto di uno studio biografico e adduceva come motivo che nel suo caso la sola cosa veramente importante erano le sue idee, mentre la sua vita privata, diceva, non poteva presentare alcun interesse per il mondo. C'è qualcosa di paradossale nel cercare di raccontare la vita di Freud. Lui stesso infatti aveva sottolineato più volte l'inevitabile tendenza alla menzogna, all'alterazione, al fraintendimento di ogni tentativo di impresa biografica. Lui sosteneva che le idee sono più importanti dell'uomo che le ha pronunciate. La sua opera però è legata all'uomo, perché quello che ci ha lasciato non è solo una teoria della mente, non è solo una filosofia, anche se geniale. Freud ha superato i confini dell'io, ci ha mostrato il potere vastissimo dell'inconscio, ci ha mostrato insomma una parte di noi vastissima, misteriosa, ma sulla quale comunque bisogna lavorare almeno un pochino nella propria vita. Ci ha lasciato uno dei più grandi esempi di come sia necessario oltrepassare i limiti. E poi insomma, quando diventi un aggettivo vuol dire che sei veramente passato alla storia. La parola freudiano, insomma, non è da tutti avere un aggettivo intestato a te. E abbiamo iniziato questo racconto con un detto latino e voglio concludere ancora in latino. Orazio diceva: sapere aude, osa sapere. Ecco, la vita di Freud è proprio un inno a questo: osa sapere. E aggiungerei per aspera, ad astra. A domani. Il Falco e il Gabbiano. Un programma di Enrico Ruggeri. Testo di Paolo Buzzone. Produzione a cura di Luigi Speciale e Anita Panizza. In questo momento, migliaia di aziende e pubbliche amministrazioni erogano i loro servizi attraverso Aruba Cloud. Perché costruiamo soluzioni sicure e flessibili. Proprio qui, in Italia. Esplora l'universo Aruba Cloud.